Siamo con Michela Greco per parlare dell'iniziativa Diritti all'Immagine, all'InfoPoint di Emergency a Roma. Sei film, una rassegna a partire dal 29 marzo al 25 settembre. Michela, ben ritrovata. Ciao, ciao a tutti. Ci racconti? Sì, allora, questa rassegna nasce da una bella collaborazione che è stata avviata fra Emergency e Rai Cinema. E Rai Cinema ci ha messo a disposizione una parte della sua library per scegliere appunto alcuni film che fossero tematicamente affini a quello che fa l'associazione. E il risultato appunto sono questi sei film, che il primo sarà Muri di Francesco Conversano e Nene Grignaffini, quindi giovedì 29 marzo alle 18:30 all'InfoPoint in via 4 novembre. E sono sei film, cinque documentari e un film di finzione, attraverso cui ci piace esplorare alcuni temi importanti di cui non si parla mai abbastanza e che in questo momento storico appunto sono ancora più importanti. Muri, ovviamente, come già si desume dal titolo, parla di frontiere, del concetto di frontiera, e ne affronta due: una che è quella che divide il Messico dagli Stati Uniti, e un'altra che paradossalmente è costituita da un ponte. Di solito il ponte serve per unire, e in questo caso serve per dividere a Mitrovica in Kosovo. E, appunto, questo è il primo dei film per analizzare il concetto di frontiera in varie declinazioni, perché se verrete a vedere il film vedrete che è molto interessante, che insomma, non è solo il resoconto di alcune vicende. E poi ci saranno Terraferma di Emanuele Crialese, World 54 di Monica Maggioni, Fuoco a Mare di Gianfranco Rosi. Questo è l'unico caso, quello di Fuoco a Mare, in cui non sarà presente il regista che è impegnato sul set, ma sarà presente Pietro Bartolo, che è il dottore abbastanza conosciuto ormai di Lampedusa. Poi ci saranno Esuli e le guerre di Barbara Cupisti e La nave dolce di Daniele Vicari. Tutto questo, diciamo, con una cadenza mensile, quindi verso la fine del mese o l'ultimo martedì o l'ultimo giovedì del mese c'è l'appuntamento con la rassegna appunto Diritti all'Immagine, che poi il titolo è anche un pochino un gioco di parole, cioè la prima i fra parentesi per dire anche Dritti all'Immagine, oppure per dire Diritti all'Immagine, per appunto parlare di diritti. E negli altri film, appunto, oltre al primo appuntamento con le frontiere, parliamo molto delle migrazioni. Per esempio, appunto, Terraferma, Fuoco a Mare, La nave dolce, e parliamo di guerra, appunto, Esuli le guerre, e World 54, che è invece un documentario sui veterani militari americani che sono tornati dalla guerra in Iraq, quindi anche un po' le ferite che rimangono dopo le guerre, insomma, lo strascico. Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito. Sì. Sembra di aver detto tante cose già. Michela, ecco, ci spieghi anche un po', il ruolo dell'InfoPoint Emergency? Sì, l'InfoPoint è nato quasi esattamente un anno fa, qualche giorno fa abbiamo festeggiato il suo primo anniversario, appunto in via 4 novembre 157B, ed è un posto da cui Emergency vuole raccontare quello che fa, però vuole anche essere un punto d'incontro, un punto di riferimento per i romani e non solo, perché poi appunto siamo in centro e quindi ci passano anche tanti turisti banalmente, che però è molto interessante perché diventa un punto d'incontro anche internazionale. Spesso entrano nel nostro InfoPoint persone di altri paesi, e da lì noi appunto raccontiamo quello che fa Emergency da ormai quasi 24 anni in Italia e nel mondo, e organizzando anche un sacco di eventi di vario tipo. Appunto c'è questa rassegna di film, spesso facciamo presentazioni di libri. La settimana scorsa abbiamo fatto un laboratorio di scrittura creativa con Gianrico, regalato appunto la sua competenza professionale per appunto raccogliere fondi per Emergency. Organizziamo anche spesso degli incontri con quelli che noi per brevità chiamiamo i medici che hanno fatto missioni di Emergency magari in Afghanistan, in Iraq, in Sierra Leone, e ci vengono a raccontare che cosa hanno visto, che cosa hanno sperimentato sul campo. Insomma, è interessante venire lì e scoprire queste cose dalla viva voce di chi le vive tutti i giorni, no? Anche i nostri operatori del programma Italia che lavorano, fanno assistenza sanitaria agli sbarchi oppure nelle zone colpite dal terremoto. È un racconto proprio della realtà quotidiana, delle cose che spesso non coincide proprio tanto con la narrazione mediatica e giornalistica che viene fatta, quindi sicuramente è un modo interessante per venire a contatto con la realtà e per sensibilizzarsi su alcune situazioni. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con la rassegna Diritti all'immagine, con 6 film e documentari a partire da giovedì 29 marzo, un film al mese fino a martedì 25 settembre. Si alterneranno i martedì e i giovedì tutto alle 18.30, ingresso gratuito all'Infopoint di Emergency a Roma. Michela, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Grazie a te, grazie a voi, ciao ciao, vi ciao. Aspettiamo.